Nausicaa nella Valle della Rete. Ed eccoci tornati al consueto appuntamento con Nausicaa nella Valle della Rete, terzo episodio, terza puntata. Siamo sempre qui, sono sempre qui, assolutamente indistruttibile. Questa volta iniziamo con un pochino più di calma, meno concitatezza, non dobbiamo scappare da nessuna parte e cominciamo con ricordiamoci di qualche cosa che viene da un profondo e remoto passato. Lo ritroveremo anche in rete, in realtà per adesso è più semplicemente una presentazione di un album che sta uscendo in questi giorni. Sentiamo di che cosa si tratta. A me dispiace perché ve la farei volentieri sentire anche tutta la canzone. Si tratta degli Yes, che ritornano all'attacco della scena musicale con un nuovo disco, e tutte le informazioni relative e tanto altro si può trovare andando per esempio al mondo degli Yes, al sito ufficiale www.yesworld.com, e anche andando a girellare sui principali motori di ricerca tipo Altavista oppure Hotbot oppure Yahoo, indirizzandoli con il titolo dell'album. L'album che sta uscendo proprio in questi giorni si chiama The Ladder, e questo brano fra parentesi è il secondo del radio editing, che si chiama The Messenger, oppure andando magari a indirizzare con la parola The Yes per vedere che cosa ci risponde la rete. Il gruppo degli Yes ha dato il via negli anni anche a delle popolari gruppi di newsletter, ed è possibile, se ci si abbona, riceverlo sotto forma di digest oppure più semplicemente sotto forma di messaggi sparpagliati che arrivano dalla nostra casella di posta elettronica, tutto quello che c'è da sapere, tutto quello che gli appassionados del mondo della rete, che poi sono persone, entità reali che si scambiano messaggi, si mandano a dire di qua e di là. Gli Yes ritornano dopo un'assenza di alcuni anni con una formazione che è sostanzialmente quella storica: un paio le defezioni, un paio le nuove entrate, Ian Anderson la voce, Steve Howe la chitarra, Billy Sherwood, Chris Squire il bassista storico, Alan White il batterista e Igor Koroshev. Questo album segna anche uno dei passaggi alla Beyond Music, quindi Eagle Records, abbandonando l'etichetta che ha portato la Atlantic Company, altresì diventata ATCO, gli Yes al successo a partire dall'inizio degli anni 70. Etichetta storica perché ha avuto per il rock progressivo, ma anche per tante altre tipi e generi musicali, uno dei migliori cataloghi americani in assoluto. Gli Yes sono un gruppo inglese, ma il vero primo apprezzamento lo ebbero ovviamente al di là dell'oceano. Da ricordare, fra parentesi, che l'Atlantic adesso ha un catalogo che, a parte le Zeppelin, è diventato qualcosa di veramente da dimenticare. Sentiamo il finale di questa canzone prima di andare alla stagione. Triste, tristissimo e anche basso, bassissimo, il contributo musicale sono è la sigla, la canzone finale, i titoli di chiusura, non mi veniva la parola, della versione giapponese, della versione originale di un anime particolare. Si tratta di Mirai Shonen Conan il ragazzo del futuro, trasmesso anche in Italia, che era una delle cose rimaste sulla gola della granata nel 1994. Che cosa è successo? Cos'è la granata? Che cosa è rimasto sulla gola? È molto semplice, la granata era forse la principale casa editrice per tutto quello che riguarda il mondo dell'importazione dei fumetti giapponesi e anche delle produzioni video. Casa che ha dato anche abitazione ha dato possibilità di esprimere ai famosi K-Boys, un gruppo di ragazzi emiliani che hanno fatto della promozione, della traduzione, oltre che della stampa, degli anime del mondo giapponese il loro punto di approdo professionale, tanto da far diventare una passione, un vero e proprio lavoro. Ebbene, la granata nel 1994 e poi con strascichi fino al 95 fallì, caso più unico che raro, non per il poco interesse da parte degli appassionati, ma per la troppa passione da parte dell'amministratore delegato che ci sperperava, diciamo così, in edizioni troppo belle, troppo lussuose, portando a termine la pubblicazione di serie che magari in quel particolare caso non avevano neanche tutto quel successo di pubblico. E il risultato qual è stato? Che i soldi sono finiti e ahimè la granata ha fatto festa. E così un bulldozer un bel giorno se n'è andato a schiacciare decine e decine di centinaia di videocassette già stampate, ma che non c'erano più soldi per portare nelle librerie specializzate e nelle edicole per essere comprate. Ahimè, sembrava una brutta fine, ma i master sono stati salvati, un'altra casa produttrice, della quale non facciamo nome perché sarebbe pubblicità, la granata si può dire tanto è fallita, un'altra casa produttrice invece è riuscita a recuperare i master, tant'è che dopo alcuni anni di assenza, miracolo dei miracoli, è notizia di questi giorni che fra poco, probabilmente sotto Natale, ci ritroveremo tutti quanti nelle edicole di nuovo la serie televisiva di Conan, già trasmessa in televisione, a un prezzo popolare e irraggiungibile. Il consiglio di Nausicaa è quello di andarvela a cercare. E ovviamente siamo arrivati allo spazio dei videogiochi. Nella nostra rassegna settimanale sui videogiochi non potevamo esimerci dal parlare della serie più discussa nel campo videoludico, ovvero la saga di Resident Evil. Per chi ancora non lo conoscesse, si tratta di un gioco d'avventura horror 3D, nato per PlayStation, in cui con la vostra intelligenza e con l'aiuto di un fucile a pompa vi farete largo tra orde di zombie affamati. Quello che ci aspetta infatti è un autunno di paura. Pensate che la Nintendo ha deciso di lanciarsi alla volta di Resident Evil 2, titolo già disponibile per la 32-bit di casa Sony. Il gioco è ambientato a Raccoon City, città brulicante di morti viventi, corvi famelici e altre creature orribili. Vi troverete a vestire i panni di Claire o di Leon. Dovrete risolvere enigmi e trovare combinazioni segrete per svelare poi, alla fine, il motivo di tutto quell'orrore. La grafica è uno dei suoi punti di forza. La telecamera fissa aumenta la suspense del gioco. Resident Evil 2 non è un semplice sparatutto, ma un must, che sicuramente non mancherà di appassionare anche gli amanti del Nintendo 64. Invece chi possiede la console Sony potrà già giocare a Resident Evil 3 nella versione giapponese, ovvero Biohazard 3, Last Escape. Noi l'abbiamo provato e ci sembra di gran lunga simile al numero 2, ma con nuove locazioni. La grafica è migliorata, inoltre c'è la possibilità di guidare nuovi personaggi. Il nostro giudizio è quindi positivo e lo consigliamo agli appassionati della serie e della Capcom. È sempre Capcom che torna a mostrarci di nuovo Dino Crisis, a nostro giudizio un gradino superiore al collega horror, una sorta di Jurassic Park, dove i dinosauri in cui vi imbatterete avranno lo scopo di farvi fuori. Ambientato in una base isolata, voi sarete l'agente speciale Regina, una rossa niente male, aiutata da altri tre colleghi. Per quanto riguarda la realizzazione tecnica, ci troviamo davanti a un motore grafico simile a Resident Evil, ma qui il gioco è interamente poligonale, cosa questa che dona un tocco di realismo in più. Dinosauri che vi attaccano, vi disarmano, vi aspettano, chiamano rinforzi e sfondano le porte. Insomma, se vi piace il brivido e non temete il pericolo, Dino Crisis è gioco per voi. Ringrazio Millennium di Via del Paradiso, angolo Via di Ripoli, per i giochi provati e soprattutto voi. Un saluto da Giovanna Giagoni. Gaikokuji, i nuovi barbari dell'era digitale. Dove sta? sangue. E tra le tante domande che si possono porre i nuovi barbari dell'era digitale, una spicca sopra tutte le altre: che cos'è Pokémon e su che cosa si gioca? Questa nuova mania che imperversa non solo negli Stati Uniti, ma anche e soprattutto in Giappone, porta dietro a sé tutto un mondo del tempio del dovere, quello della Nintendo, un mondo che viene rappresentato da qualche cosa che vale la pena di sapere, perché esiste anche un gruppo di 40 ragazze, si chiamano Baby Waves e sono proprio delle baby perché hanno un'età media fra i 10 e i 12 anni, che hanno fatto uno spot incredibile per quanto riguarda la pocket camera del Nintendo Game Boy. Sentiamolo. ゲームボーイポケットカメラ。 Ma sicuramente i nuovi barbari non sono soddisfatti di questo, che è la risposta semplice. Ci vuole qualcosa di più completo per capire che cos'è Pokémon, qualche cosa come un film che, fra parentesi, sta, anzi è appena uscito nelle sale americane. Trainers, you are summoned to the greatest challenge ever. Prepare to witness the rarest and most powerful of all. This fall, training is over and the ultimate showdown begins. Kids WB presents the first Pokemon movie ever. Catch it, November 12th. Pikachu! Only in theaters. The place I'd rather be. You left a fire in my eyes that lightens up the darkest skies. I'm giving up, I'm letting go. I'll find my way. So e questo che basti per tutti i nuovi barbari, che basti per quest'era digitale, uno spaccato di come attraverso l'oceano, quello pacifico, non atlantico, passino le mode e anche le maniere. Gaikokuji, i nuovi barbari dell'era digitale. Siamo arrivati di nuovo al termine, le cose belle finiscono subito, le cose brutte sembra che non finiscano mai, sta a voi giudicare in quale delle due posizioni ci troviamo in questo momento. In ogni caso la fine è sinceramente la fine, l'appuntamento è per la prossima settimana. La casella di posta elettronica alla quale inviare i vostri più reconditi pensieri è antonio@vill.it. Prossimamente il nostro webmaster allestirà anche una casella postale per la nostra esperta di videogiochi, la compagna in questo cammino cibernetico. Nel frattempo non si può fare a meno che inviare un saluto e a ben presto risentirci. Nausicaa nella valle della rete. 鬼だそう戦いの海へ飛び込もう戦いの渦へ見つめ合う瞳と瞳ぬくもりを信じ合う5人の仲間